si sta festeggiando 16 anni di, diciamo, il discorso della sovranità alimentare che va avanti a Bologna, e nel senso dell'autogestione alimentare, l'autodeterminazione forse è la parola più giusta. E quindi c'è, cioè, a livello della città il poter scegliere che cosa si mangia, la qualità di cosa si mangia, e che questa è una possibilità qua a Bologna, e in molti città no, cioè la norma è che non è un'opzione questa cosa qua, o hai il tuo orticello oppure non hai nessuna scelta, vai dalla grande distribuzione. Per noi come produttori stiamo festeggiando che dopo 16 anni in cui, cioè 16 anni fa, 5 produttori si sono messi insieme e hanno fatto il primo mercato abusivo all'XM, completamente fuori legge. Ormai dopo 16 anni i farmers market sono legali e sono dappertutto qua a Bologna, li usa anche la Coldiretti, eccetera eccetera, e adesso siamo in 150, abbiamo riempito questa piazza ed è la metà di Campi Aperti, quindi è veramente una cosa in crescita. E abbiamo un sacco di richieste da fare mercati dappertutto nella città, veramente troppi, non sappiamo esattamente come fare, e un sacco di richieste di produttori da entrare in Campi Aperti, quindi diciamo che stiamo festeggiando che siamo qua e che il progetto sembra che stia funzionando bene, ecco, sì. E a livello di rapporto con la cittadinanza da una parte e con l'amministrazione dall'altra, se non possono andare insieme, come sta andando questo rapporto o questi rapporti? Allora, diciamo che così come dall'inizio, dalla nascita di Campi Aperti, a livello del comune c'è dell'ambivalenza. Non è che ci vogliono male, ma non è che ci vogliono bene, come dire. È una via di mezzo in cui non sappiamo mai come vanno le cose, le procedure sono molto complicate, molto contorte anche, ed è difficile capire. In questo momento anche non siamo agevolati come vorremmo essere, diciamo, perché facciamo fatica come associazione ad arrivare, diciamo, alla fine dell'anno ogni anno senza fare buco, e quindi il prossimo passo è far capire al governo comunale che, cioè, questi mercati valgono qualcosa per chi vive qua. Quindi per quanto riguarda le agevolazioni, che facciamo qualcosa che, diciamo, che è di un'utilità generale, che è salvaguardare l'ambiente nei campi, portare ad un minimo gli sprechi e poi salvaguardare, appunto, noi vogliamo essere, come ho detto stamattina, prima cosa l'alternativa sostenibile sia in termini ambientali ma anche in termini umani, ed ecco perché abbiamo scelto di fare il dibattito che abbiamo fatto stamattina. Ci sono due temi su questo dibattito che mi piacerebbe un pochino approfondire, anche sul tema della sovranità alimentare, cioè da una parte la dignità del lavoro, appunto, e dall'altra invece anche la preservazione, la varietà di sementi piuttosto che di cultura dell'agroalimentare che si è creata in secoli, anzi millenni in realtà, di umanità che è vissuta a contatto con la natura e che ora sta perdendo questo contatto e sta perdendo anche tutta una ricchezza comunque. Diciamo che gli esempi più facili che ti posso fare sono il nostro progetto sui semi che stiamo facendo con un genetista che si chiama Salvatore Ceccarelli, è molto famoso anche come professore, di miscugli, cioè in realtà c'è chi pianta delle varietà antiche eccetera eccetera, e c'è tutto un altro filone che è un po', diciamo, una visione più moderna della cosa, che cerchiamo di salvaguardare le varietà facendo questi miscugli che mette insieme un po' di tutto, perché pensiamo che sia anche molto interessante per il futuro, nel senso che adesso stiamo lavorando con un miscuglio di zucchine che ha tipo 300 varietà diverse di zucchine che mettiamo in campo tutte ad una volta. In questo modo In un anno magari hai la siccità e hai la zucchina che resiste bene alla siccità e viene bene, e l'altro che ha bisogno di acqua che non viene bene, però qualcosa ce l'hai. E l'anno dopo hai troppa pioggia, allora quello che richiede molta acqua va bene, oppure che è resistente a troppa acqua va bene, l'altro della siccità va male. Però insomma, pensiamo che sia interessante anche per il futuro questa cosa di un po' staccarci da questa mentalità che è la mentalità della grande distribuzione organizzata, che tutte le verdure devono essere la stessa forma, stesso colore, essere assolutamente prevedibile, perché così va bene per i futures. E invece, cioè, appunto, vorremmo tornare a... Quindi questo è uno dei lati. Certo che noi stiamo tutti conservando dei semi che appunto nella grande distribuzione veramente le varietà sono limitatissime, e come dicevi prima ci sono centinaia di migliaia se non di più di varietà già perse in questo mondo, e si sta sempre scemando un po' di più. Quindi questa è una cosa che già l'agricoltura contadina ha fatto, come facciamo noi, che non cerchiamo tipo la conformità di tutto, cioè va, come dire, va contro così. Però chiaramente una parte molto importante della sovranità alimentare, che adesso stiamo appunto dicendo più l'autodeterminazione alimentare, è avere un seme, è avere quella varietà che esiste ancora. Tornando sul tema del lavoro, che l'avevo accennato, poi l'abbiamo mischiato a questo argomento che già di per sé era complesso, ma questa mattina c'è stato l'incontro sulle migrazioni, c'è stato anche appunto, si è parlato del tema di Rosarno, del capo Lato, la distanza ovviamente rispetto a campi aperti è abbastanza ovvia, però qual è la differenza e quali sono anche le reti che si stanno costruendo a livello italiano per offrire un'alternativa? Ma diciamo che noi siamo una delle reti, nel senso che anche quello è tipo un po' a pari passo del problema ambientale, è sistemico, con una grande distribuzione che mette i prezzi che mette, come mette, non ci esci. Quindi o fai un altro tipo di agricoltura a piccola scala, oppure non ci stai dentro con i prezzi, non ci stai dentro. E per quello non è che giù in Calabria sono tutti malvagi mentre qua su siamo più illuminati. Qualsiasi persona che ha una grande distesa di monoculture deve per forza quasi ricorrere alla schiavitù. Questo è un fatto, ed è un fatto mondiale, ed è un problema enorme per l'umanità. Quindi diciamo che ci sono delle reti come Fuorimercato, SOS Rosarno, ma è sempre così un po' fra consumatori che sono più sensibili o sensibilizzati all'argomento, che sono disposti ad organizzarsi per tagliare fuori la distribuzione e comprare direttamente dai produttori. È la stessa cosa che fa Campi Aperti, è solo che abbiamo un'altra dinamica. Cioè, in realtà, diciamo, il prossimo passo in terreni come la Calabria, eccetera, eccetera, è distanziarsi dalla monocultura, perché non fa bene ai terreni. Però, per come sono impostate le cose adesso, lì giù, questo è un buon passo in avanti. È molto piccolo come percentuale della cosa, eccetera, eccetera. Anche per noi abbiamo scoperto che la vendita diretta è la chiave. Detto questo, io direi che la maggior parte di noi, non voglio dire tutti di noi perché non lo so, però posso scommettere che la gran maggioranza di noi siamo tutti al di sotto del minimo sindacale. Quindi diciamo che, come dicevano stamattina, siamo soggetti deboli, anche noi, deboli in questo senso qua. Siamo forti perché abbiamo queste relazioni, perché abbiamo questa associazione, che forse è una cosa unica in Italia, almeno sicuramente lo è. E niente, quindi c'è molto da fare, perché dobbiamo anche capire come il lavoro di contadino può veramente diventare un lavoro dignitoso che ti paga a pari passo di tutti i lavori nel terzo settore. Perché noi dobbiamo tutti mangiare, senza il cibo moriamo. Quindi è strano che viene pagato così poco questo lavoro.